Oh, scusatemi per prima, ma le malanne di stagione sono sempre malanne di stagione. Vi stavo dicendo che ai vigili quelle dotazioni, le mazzette distanziometriche, evidentemente non piacciono, e che su istanza delle loro organizzazioni sindacali i primi 200 esemplari distribuiti in occasione della fiera degli Obey Obey sono stati ritirati. L'assegnazione definitiva avrà luogo soltanto dopo che i singoli agenti avranno seguito un apposito corso di istruzione e abilitazione tenuto da esperti del comune. Chissà cosa gli insegneranno, se gli insegneranno a picchiare in testa con la giusta angolazione o a misurare le distanze o a segnalare la propria presenza. E questo è un caso in cui non ci si può che augurare che i programmi e contenuti siano resi noti ai cittadini con ragionevole anticipo.